I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Proiettili e coltelli. Noi non abbiamo mai un happy ending, perché è chiaro che la resurrezione non è ancora concepita da noi, per cui non puoi mai, la storia non va mai a finire bene. Va a finire bene quando pensi di aver fatto, tra virgolette, giustizia, che è un'illusione di chi si affaccia all'inizio a questo lavoro. Oggi c'è la tendenza a banalizzare le sensazioni che ruotano intorno a un omicidio volontario. Il tutto viene urlato e dibattuto in televisione ancora prima del processo. Avvocati, criminologi e altri esperti non si azzuffano davanti ai telespettatori, impugnando spesso tesi basate su dati emotivi e assolutamente non supportati da un corretto approccio scientifico. Tutto ciò nulla c'entra con quello che succede quando una persona ne uccide un'altra, quando un essere umano si trova il coraggio di affondare la lama nell'addome di un suo simile, facendosi strada tra ossa e visceri, o di premere il grilletto mirando al volto di chi gli sta di fronte. Il clamore delle cronache che di questi particolari si nutrono non rappresenta il lavoro scientifico di chi si adopera per capire cosa sia successo. A Milano avvengono circa una trentina di omicidi all'anno con uso di armi, spesso pistole o coltelli, ma anche oggetti da taglio o contundenti di uso comune impropriamente usati per colpire. All'Istituto di Medicina Legale di Milano c'è una stanza colma di reperti giudiziari. All'interno di alcune scatole di anonimo cartone si trovano pistole, coltelli, balestre, martelli, cacciaviti, seghe, proiettili, che forse hanno lasciato segni inequivocabili sui cadaveri. E questi segni vanno studiati e valutati attentamente, con calma e senza clamore, per capire l'arma che li abbia prodotti e come siano andate veramente le cose. Il primo contatto con i proiettili o i colpi d'arma da fuoco lo ebbi da bambina. Mi ricordo innanzitutto nel paese di Pontestura, nel Monferrato, dove stavo qualche mese all'anno, i cacciatori che partivano con le mute di segugi, sentivo sempre i colpi sparati a distanza durante la caccia. Ma un ricordo ancora più brutto che ho è proprio dell'associazione dei colpi d'arma da fuoco con il sistema che aveva il mio comune 40 anni fa di combattere il randagismo. Questi cani, mi ricordo in particolare una cagnetta dolcissima, bionda, randagia, che venne portata al vecchio tirassegno del paese dalla guardia comunale che c'era ai tempi e venne sparata. E forse è proprio per questo che in quel stesso tirassegno, insieme ad alcuni amici, abbiamo messo su per 15 anni un canile per randagi, proprio per evitare che succedano cose di questo genere. La mia prima esperienza invece con un colpo d'arma da fuoco da studente specializzanda di medicina legale fu un suicidio. Ero spettatrice di un'autopsia con i vari professori e tutori che mostravano il caso. Era un caso di un suicidio, un ragazzo molto giovane si era suicidato con un fucile sparandosi in bocca, e c'era da cercare la borra che conteneva appunto i proiettili. E mi ricordo benissimo questa esperienza che bruciò per un po', in quanto il mio tutore, che era un ragazzo di qualche anno più grande di me, mi aveva dato dell'asino perché non sapevo di che cosa era costituita una borra. I quesiti dei magistrati tendono a voler sapere di tutto e di più: quante entrate, quante uscite, il percorso del proiettile, la distanza di sparo. Se il cadavere è ben conservato, queste domande in genere trovano la risposta. A volte invece chiedono l'impossibile, come la sequenza dei colpi o le posizioni reciproche tra vittima e assassino. Il tuo corpo si intorpidirà. Entra molto più facilmente. Se sei rilassato. Cosa difficile è non svenire per il dolore. L'autopsia di una vittima di colpo d'arma da fuoco è tra le più lunghe. Bisogna partire addirittura dai vestiti, descrivere il diametro del foro nel vestito, se ci sono residui di colpo d'arma da fuoco intorno al foro, e poi bisogna spogliare il cadavere e rifare la stessa cosa su tutte le lesioni che ci sono sul cadavere, proprio per riuscire a capire quali sono i fori di entrata, d'uscita e così via. E ci sono delle cose che ovviamente alle quali non si può rispondere. Si pensa spesso che riusciamo a ricostruire la sequenza dei colpi: è stato sparato prima quello al torace, poi quello in testa. Questo è assolutamente impossibile, perché la successione veloce dei colpi fa sì che è biologicamente impossibile vedere delle reazioni cellulari che permettano di distinguere due eventi traumatici avvenuti a così poca distanza l'uno dall'altro. È spesso molto difficile anche capire le posizioni reciproche da chi ha sparato rispetto alla persona che ha subito i colpi. Ma ci sono delle cose invece che sono molto interessanti, la scienza a volte ci può veramente aiutare. Ci sono delle tecniche chimiche, delle tecniche microscopiche che ci aiutano tantissimo nei casi dei colpi d'arma da fuoco, e qui ovviamente bisogna tirare in ballo il chimico e il balistico. Alberto Brandone, chimico balistico, docente di chimica dell'ambiente presso l'Università di Pavia. Dal punto di vista più strettamente medico-legale, ecco che si presenta anche un problema di valutazione della distanza di sparo. I medici legali hanno tutti ben stabiliti dei criteri per valutare la distanza di sparo. In particolare, il proiettile va a colpire direttamente la cute. In caso di distanze ravvicinate si vede la formicatura dovuta alla proiezione dei residui dello sparo sulla cute, ma a distanze superiori, diciamo oltre i 20 cm, ecco che questi fenomeni cosiddetti secondari vengono a mancare. Ecco che allora può essere di utilità l'azione della chimica. Con determinate tecniche di valutazione chimica si possono valutare le quantità di residui di sparo presenti sul foro di ingresso, quantità che poi vengono utilizzate per valutare la distanza di sparo confrontando alle quantità di residui di sparo riscontrate in spari sperimentali fatti, per cui si costruisce una sorta di curva di taratura e avremo una certa quantità di residuo di sparo per la distanza di sparo. Sulla base di questa curva di taratura io posso andare a collocare la quantità di antimonio relativa all'incognito e quindi valutare la distanza di sparo. Questo metodo funziona particolarmente bene quando il proiettile, invece di colpire direttamente la cute, colpisce prima un indumento, per cui sull'indumento la valutazione di questi residui secondari dello sparo diventa ancora più difficile, in quanto ci sono le fibre dei tessuti, le fibre tessili, che quindi impediscono una visione anche microscopica. Un altro caso interessante si presenta quando si trovano dei resti umani che hanno subito un abbruciamento. In questo caso, quando l'abbruciamento è abbastanza consistente, per cui non ci sono più i tessuti di rivestimento, ma abbiamo solo il reperto osseo, quando ci sono lesioni sospette, la sola osservazione, pur anche microscopica, non fornisce indicazioni utili. In questo caso utile è fare un'indagine chimica, che può essere fatta sia attraverso la microscopia elettronica. I moderni microscopi elettronici consentono di inserire direttamente nella camera microscopica il reperto così come si trova, senza subire preparazioni preventive. Facendo un'osservazione accurata del bordo in particolare di questa lesione, è possibile individuare molte volte dei frammentini di proiettile che sono stati depositati dal passaggio del proiettile stesso. L'osso è una struttura abbastanza consistente, per cui il proiettile, nel momento in cui lo impatta e lo attraversa, deposita delle microtracce della sua parete esterna. Procedendo poi all'analisi chimica, si può individuare la natura chimica di questo frammentino sospetto ed eventualmente attribuirlo, se l'analisi fornisse appunto la composizione costituita da zinco e rame, attribuirlo ad un passaggio di proiettile. Era ancora senza un nome quel corpo con il volto sfigurato, un colpo di fucile in bocca, l'altro alla spalla, fatali. Ferito con un colpo di pistola, la vittima, che non è stata ancora identificata, è stata raggiunta da un proiettile al volto. Un solo colpo di pistola alla scapola, mentre in macchina attendeva qualcuno. Tra i casi che ricordo in cui veramente la scienza ha dato un apporto, il primo era di un suicidio di un signore costretto sulla sedia a rotelle, ormai invalido, anziano, che aveva deciso di spararsi. Era una guardia, aveva una pistola in casa e si sparò un colpo al torace. Miracolosamente mancò organi vitali e quindi dovette decidere di spararsi poi alla testa. Ci trovammo con questo cadavere con due colpi d'arma da fuoco, uno al torace e uno al capo, che ricordava molto di più un omicidio piuttosto che un suicidio. Questo signore viveva con due sorelle e ovviamente si pensava che potessero essere state le sorelle, ma attraverso le indagini chimiche, la ricerca di antimonio sia sulle mani e sugli indumenti che portavano le sorelle al momento della morte di questo signore, sia sui fori d'entrata del signore stesso, si riuscì a ricostruire che in effetti tragicamente era andato così. Il signore non era riuscito a spararsi a organi vitali con il corpo al torace e quindi aveva dovuto esplodere un secondo colpo alla testa, che questa volta fu letale. Altro caso fu quello in cui vennero trovati dei resti scheletrici in un bosco e del capo residuavano soltanto alcuni frammenti che erano stati anche mangiati dagli animali, dalle volpi, dai cinghiali. Su uno di questi frammenti c'era una rima di frattura che partiva da una lesione che aveva un aspetto simile a quello del colpo d'arma da fuoco, ma da un punto di vista morfologico non si poteva confermare. E qui, portando ad esaminare questo frammento di osso cruciale al microscopio elettronico a scansione, mi ricordo che seduta vicino al tecnico che lo faceva funzionare vedemmo delle cose bellissime da un punto di vista scientifico all'interno di questa tragedia. Intorno a queste fratture c'erano delle piccole sostanze, delle piccole particelle che il microscopio ingrandiva migliaia di volte, che erano molto nette, e tutto il marchingegno all'interno di questo strumento tecnologico ci restituiva sul monitor del computer dei picchi che facevano vedere che quella sostanza era fatta di piombo. Quindi intorno a questa frattura c'era del piombo, e quindi molto probabilmente si riuscì a capire che questo scheletro, seppur imparziale, apparteneva a una persona che era stata sparata e che quindi era vittima di un omicidio. Corpi. A volte capita che arrivino in obitorio solamente dei pezzi di ciò che una volta era una persona. Ciò può essere una conseguenza di eventi naturali, ad esempio in un fiume, in un lago o in mare. La decomposizione disarticola il corpo e i diversi settori anatomici prendono strade diverse. Altre volte invece il cadavere viene fatto a pezzi intenzionalmente, spesso con l'intenzione di occultare la vittima o di impedirne il riconoscimento. Tra le cose che hanno trovato c'erano delle ciotole ricavate da parti di teschi umani. Non è nella natura dell'uomo fare ciò che lui faceva, è un'aberrazione. Entrarono con delle torce. Era buio pesto lì dentro, non c'era né luce né elettricità. A un certo punto uno dei poliziotti sentì qualcosa contro la spalla e vide Bernice Worden che penzolava dai travicelli a testa in giù, decapitata e sventrata come un cervo. Il tipo di omicidio più cruento forse è quello d'arma bianca, effettuato con i coltelli, con le lame, con le accette e così via, anche perché molto spesso qui si vedono i segni della lotta della vittima. Ci sono le cosiddette lesioni da difesa, che sono quei tagli che si vedono sul palmo delle mani e delle dita, che sono state prodotte proprio mentre forse la vittima stava afferrando la lama. in questa autopsia in genere si legge molto molto bene la violenza. Anche sull'arma bianca ci sono molti miti da sfatare. È vero che su un cadavere ben conservato è possibile, se l'arma ha agito in un certo modo, ricostruire o risalire bene o male alla lunghezza minima, alla larghezza, alla forma, se era un monotagliente, un bitagliente. Quindi un po' di cose si possono dire. Miti da sfatare invece, come si vede nelle fiction oppure come si sente anche in alcuni casi di cronaca, sono le ricostruzioni precise di come è andato l'accoltellamento, cioè da destra a sinistra, dall'alto al basso. È molto molto pericoloso ricostruire al millimetro queste dinamiche di aggressione. Un'evenienza in cui si può dire veramente molto invece sull'arma che ha inferto la lesione è nei cosiddetti casi di depezzamento. Ecco, in genere in Italia non ci sono moltissimi casi, noi a Milano ne vediamo in media 1-2 all'anno, e sono casi in cui l'autore fa a pezzi il cadavere proprio ai fini di poterlo meglio, in genere ai fini di poterlo meglio occultare, e qui agiscono di solito con dei coltelli, delle lame o con delle seghe. Per fare a pezzi un cadavere è necessario attaccare anche la parte ossea. Ecco che l'osso riproduce fedelmente la forma in negativo della lama, del coltello, della sega che ha colpito. Quindi, facendo dei calchi della lesione, si può risalire molto bene al tipo di lama, soprattutto nel caso di seghe che ha agito, e si può capire la distanza tra i vari denti, l'angolo dei denti rispetto all'asse del coltello o della sega e così via. E quindi molto spesso i casi di depezzamento sono casi che da un punto di vista scientifico danno qualche soddisfazione in più. Massimo Picozzi, psichiatra forense. Ci sono situazioni, le più semplici ovviamente che possiamo immaginare sono quelle in cui smembrare un corpo, fare a pezzi un cadavere, risponde ai criteri utilitaristici, cioè praticamente la persona che commette questa orribile scempio di un corpo lo fa per disfarsi di un cadavere che altrimenti rimarrebbe una scomoda testimonianza, ingombrante testimonianza del suo omicidio. Ci sono altre situazioni che pian piano scivolano decisamente nella patologia. Sto pensando alle perversioni sessuali estreme come il cannibalismo, la necrofilia. Gli investigatori erano rimasti completamente allibiti e orripilati per aver scoperto questa incredibile collezione di oggetti ricavati da resti umani. C'erano anche delle scodelle ricavate dalla parte superiore di teschi. Un'altra situazione in cui si può assistere allo smembramento, al depezzamento, è quella dei cannibali a cui accennavo prima, e qui l'altra vicenda passata agli onori delle cronache è quella del cannibale di Rothenburg, un ingegnere tedesco, Armin Magres, che a un certo punto cerca vittime su internet, persone disposte a farsi mangiare, e alla fine seleziona tra i tanti pretendenti un personaggio che si presenta a casa sua e disposto a farsi mutilare. I due mangiano insieme una parte del corpo della vittima, la vittima poi muore dissanguata e fa a pezzi ciò che resta del corpo e lo conserva in frigorifero pronto a essere poi consumato successivamente. C'era quella che la polizia in seguito avrebbe chiamato veste mammaria, la parte superiore del tronco di una donna che Gain aveva prelevato da un corpo conservato e a cui aveva attaccato delle cinghie. Poi c'erano dei gambali ottenuti dalla pelle di gambe femminili. Un'altra può essere anche quella di scrivere nel corpo mutilato una sorta di avvertimento per clan malavitosi. A questo punto, un po' come l'incappertamento di mafia, dare un messaggio uccidendo, mi viene in mente ad esempio il caso di alcune prostitute depezzate. Ecco, in quel caso il corpo fatto a pezzi, i pezzi del corpo costituiscono una sorta di avviso, annuncio ovviamente intimidatorio nei confronti delle altre cosche o delle altre prostitute. E l'ultima categoria è quella dei soggetti che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tipicamente la cocaina, e sotto l'effetto di queste sostanze la loro distruttività aumenta, per cui si può assistere effettivamente a cadaveri mutilati appunto perché la droga ha tolto qualunque tipo di inibizione. Direi che però una statistica ovviamente non c'è, perché fortunatamente i casi non sono moltissimi, ma direi che nel 90% delle situazioni lo smembramento e depezzamento è soprattutto utilitaristico, cioè si fa pezzi un corpo per disfarsi di una prova. Negli Stati Uniti sono molto molto più rappresentati le mutilazioni, i depezzamenti fatti e operati da serial killer a sfondo sadico sessuale. Quindi lì il sadismo, la necrofilia, la perversione è un po' come centrasse qualcosa di culturale, devo dire però che è difficile comprendere come mai i reati sessuali estremi siano più diffusi. Certamente una grande casistica americana di depezzatori rientra nei serial killer. Noi sappiamo che il fenomeno dei serial killer è più tipico degli Stati Uniti, dove ci sono circa l'80% degli assassini seriali di tutto il mondo. Dove ci sono situazioni in incremento di serial killer, penso ai paesi come il Sudafrica, come l'Australia, che sono i paesi che negli ultimi anni hanno dato il maggior contributo ai serial killer, ecco che anche lì può accadere appunto che il corpo venga violato e mutilato. Quello che può fare assolutamente specie, devo dire che anche da noi un caso emblematico è stato quello di Gianfranco Stevanin. Anche Stevanin si accaniva sul corpo delle sue vittime e anche lì è arrivato anche a mutilare il corpo. Il mostro di Firenze, anche se non depezzava in qualche misura, l'oltraggio, lo scempio sui genitali delle vittime è una sorta di depezzamento, di mutilazione. Difficile, dicevo, pensare o capire per quale motivo gli Stati Uniti e i paesi come l'Australia, piuttosto che Sudafrica, producano più serial killer che non Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, che sono tutti paesi con una percentuale simile di assassini seriali. E a questo proposito devo confessarle che sto pensando molto seriamente. Di mangiare sua moglie. In genere i casi che ci arrivano sono o casi di criminalità organizzata, e molto interessante sono i casi di depezzamento che dalle autorità vengono attribuiti alla mafia cinese e sono fatti veramente a regola d'arte. Abbiamo provato a disarticolare in sala anatomica anche noi, cercando di seguire le stesse modalità, con risultati molto più scarsi. Quindi queste sono delle attività di gente molto preparata anatomicamente che riesce a disarticolare un cadavere a volte senza lasciare neanche un segno sulle ossa, quindi a forza di coltelli con lame probabilmente molto, anche molto sottili. Poi ci sono invece quelli che uccidono, che devono per forza, sono casi più banali, devono per forza far sparire il cadavere e agiscono con quello che trovano, quindi con le seghe, in genere sono seghe a mano, e appunto tagliano il corpo dove meglio e come meglio capita. Un caso più eclatante, più interessante forse da un punto di vista delle modalità, fu un caso di un corpo che venne trovato nel pieno centro di Milano. Un signore, uscendo da una birreria, fa retromarcia con l'automobile, si scontra contro un cassonetto dell'immondizia e cade da questo cassonetto, esce da questo cassonetto un sacco nero dal quale uscivano due ossa lunghe. Pensando che si trattasse di animale, comunque vengono chiamati i carabinieri, portano tutto in obitorio, e aprendo il sacco si scoprì che c'era lo scheletro di un uomo di circa 30-40 anni, dalla vita, rappresentato soltanto dalla vita in giù, quindi il bacino e gli arti inferiori, che era stato depezzato e anche, diciamo così, scarnificato. La cosa interessante che trovammo fu che un arto era stato depezzato ed erano state anche tolti tendini, muscoli, masse di tessuti molli con un'accetta, di cui era anche ben visibile larghezza e così via. L'altro arto era invece stato trattato con una sega, i segni erano molto diversi e rappresentavano un'arma diversa. Forse quindi questo trattamento del cadavere era avvenuto in due momenti molto diversi. Trovammo anche dei peli di gatto all'interno delle articolazioni, quindi c'era un gatto da qualche parte dove era avvenuta questa attività, e trovammo anche delle foglie che ci indicavano alcune zone della città piuttosto che altre. Ma purtroppo la persona non venne mai identificata, rimane ancora un cadavere sconosciuto e il delitto non fu mai risolto. Corpi. La mia mente era un vortice di scene di violenza e di sesso. Nella sua follia pensava che mangiandoli sarebbero diventati parte di lui. I crimini commessi da Jeffrey Dahmer sono insieme orribili e intriganti. In breve tempo, l'uomo diventa uno dei più famosi serial killer della storia. C'è una soglia, quella della vita degli altri, che l'uomo oltrepassa per impulso, per rabbia, per follia o per convenienza. Come questo avvenga è difficile da stabilire ed è quasi impossibile comprendere ciò che si nasconde nei meandri della mente umana. Ma l'omicidio è forse il torto più grosso. E davanti a una gola tagliata o a un torace crivellato di colpi, si capisce che il male non sta soltanto nel dolore di chi, morendo per le ferite, ha sofferto ed è precipitato nel nulla, ma sta anche in tutto ciò che viene a mancare perché gli era vicino. E si legge anche nelle mascelle serrate e i tratti contratti di chi non riesce neanche più a piangere. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.